Effetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. La legge elettorale passa alla Camera, supera a tre fiducie il voto segreto, polemiche sulle candidature all'estero, il testo dalla prossima settimana al Senato. Arriva il decreto fiscale, torna la rottamazione delle cartelle, lunedì a Palazzo Chigi la legge di bilancio. Approda a Palermo la nave dei bambini, 640 i migranti, di questi 240 i minori, l'Austria rilancia intanto sul controllo sul Brennero. Caso Battisti, Brasile sempre più vicino all'estradizione dell'ex membro dei proletari armati per il comunismo. Sentinel 5P in orbita, il satellite che potrà scoprire in tempo reale le più gravi fonti di inquinamento che si riversano nell'atmosfera. Buongiorno da Vincenzo Miglietta e bentrovati con Effetto Giorno, il punto di metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, percorso che faremo grazie al contributo in regia di Paolo Corleoni, Valerio Rocchetti ed Alessandro Chiappini, e in redazione d'assistenza grazie a Laura Faggin. Partiamo allora dalla legge elettorale, ci colleghiamo subito in diretta con Montecitorio con la nostra Elisabetta Fiorito. Elisabetta. Sì Vincenzo, adesso è caccia ai franchi tiratori, quei 60 deputati che non hanno votato il Rosatellum e che facevano parte dei partiti firmatari dell'intesa. La fiducia a Montecitorio è infatti passata, il voto finale sul Rosatellum a Montecitorio è infatti passato con 375 sì, 215 no, dopo tre fiducie a scrutinio segreto, e è stato l'ultimo voto chiesto da MDP. E tanto che la fiducia potrebbe essere messa anche al Senato, ma è una scelta difficile perché a Palazzo Madama non c'è differenza tra voto di fiducia e voto sul provvedimento. Forza Italia e Lega si troverebbero nell'impasse di dover uscire dall'aula e non partecipare al voto. Il vantaggio però ci sarebbe, perché il voto finale non potrebbe essere segreto perché voto di fiducia. Intanto comunque il voto sul Rosatellum provoca crepe anche nel centrodestra. Fratelli d'Italia infatti ha votato contro, sentiamo Giorgia Meloni ai microfoni di 24 mattino. La cosa veramente che supera tutto è che tu puoi anche non decidere il partito, nel senso che questa legge istituzionalizza le liste civetta, che sono praticamente delle liste, in questo caso istituzionalizzate, che servono solamente a truffare il tuo voto. Voti il partito degli animali e ti ritrovi che con il voto che hai dato al partito degli animali, il partito degli animali non elegge nessuno e il tuo voto viene conteggiato per eleggere qualcuno di, che ne so, di Forza Italia. Ieri in piazza anche la protesta dei 5 Stelle, per Luigi Di Maio è solo il primo round, se mettono la fiducia anche al Senato ci stanno facendo campagna elettorale. Polemiche poi sulla norma che consente a chi è residente in Italia di potersi candidare anche nelle circoscrizioni estere, la norma cosiddetta salva Verdini, ma PIN nega, da noi nessun soccorso. Anche per Luigi Bersani di MDP attacca, Gentiloni ha perso credibilità. A te Vincenzo. E grazie ad Elisabetta Fiorito per il tuo contributo da Montecitorio. Ora l'analisi sulla legge elettorale di Daniele Biacchessi. Il Rosatellum bis, il nuovo sistema elettorale appena passato alla Camera e ora all'esame del Senato, potrebbe essere valutato anche dalla Corte Costituzionale dopo il parere del Capo dello Stato, che dovrà firmare il provvedimento, pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale, trasformarlo in legge vera e propria. Alla Corte Costituzionale si potrebbero rivolgere gli opposti, il Movimento 5 Stelle e la sinistra, che parlano già di legge truffa. Ma il Rosatellum bis è davvero incostituzionale? Per Valerio Onida non ci sarebbero profili di incostituzionalità, bensì contenuti invece contraddittori. Infatti l'elezione nel collegio uninominale non è più veramente tale se il voto è unico per l'uninominale e la lista. A quel punto occorrerebbero due schede o almeno il voto disgiunto. Ma la posizione di Onida non è condivisa da un ampio fronte di costituzionalità come i professori Zagabeschi, Villone, Pace e Calvano, secondo cui il Rosatellum bis potrebbe essere un'altra legge incostituzionale. Insistono sull'eccesso di parlamentari nominati dai capi partito grazie alle liste bloccate e alle pluricandidature. Secondo il fronte anti-Rosatellum si potrebbero ancora sottoporre alla consulta l'attuale disomogeneità tra i sistemi elettorali di Camera e Senato e alcune norme che il nuovo sistema elettorale erediterebbe dall'Italia, ma addirittura prima delle prossime elezioni politiche. Intanto nelle prossime settimane, comunque entro fine ottobre, ben quattro tribunali dovrebbero decidere se accogliere o meno i ricorsi e dunque i sospetti di incostituzionalità. Il destino del Rosatellum pare ancora in salita. E non ci sarà nessuna manifestazione a Roma il 28 ottobre, anniversario della marcia fascista su Roma, lo ha detto il ministro dell'interno Minniti, ma Forza Nuova insiste, il movimento guidato da Roberto Fiore conferma l'iniziativa, si mobilita però l'Ampi per lo stesso giorno con una manifestazione dove sarà ricordata l'importanza storica del 28 ottobre e di quanto avvenne nel 1922. Nel nostro approfondiremo tra breve, sentiremo proprio le ragioni del presidente dell'Ampi, Smuraglia. Passiamo all'economia, l'Istat conferma nei dati definitivi la frenata del tasso di inflazione a settembre, l'indice nazionale dei prezzi al consumo diminuisce dello 0,3% su base mensile e aumenta dell'1,1% rispetto a settembre 2016. La lieve frenata è ascrivibile per lo più al rallentamento dei prezzi dei trasporti e dei beni energetici regolamentati, accelera sull'anno il carrello della spesa con forti rincari per la verdura fresca. Arriva intanto la prima tranche della manovra 2018, oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, iniziato da circa un'ora. Si tratta di un decreto destinato ad accompagnare la legge di bilancio in agenda lunedì prossimo. Nuova rottamazione delle cartelle fiscali, rifinanziamento delle missioni militari, risorse fresche per il fondo di garanzia per le PMI e bonifica di Bagnoli. Sono queste alcune delle misure del decreto fiscale, prima tranche della manovra 2018, all'esame del Consiglio dei Ministri di oggi. La bozza del decreto, che garantirà parte delle coperture della legge di bilancio, prevede una rottamazione bis per ruoli fiscali e contributivi pendenti dal 1 gennaio al 30 settembre 2017. Si riapre inoltre fino a tutto novembre il termine di pagamento per chi avesse saltato le prime due rate di luglio e settembre. Il fondo di garanzia per le PMI potrà contare su 550 milioni in più, di cui 350 per il 2017 e 200 per il 2018. Istituito anche un fondo imprese sud che aiuterà il tessuto economico produttivo di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Il fondo imprese sud ha una dotazione iniziale di 150 milioni di euro. In arrivo anche oltre 32 milioni in favore di tre strutture ospedaliere: il Bambin Gesù, la Fondazione Santa Lucia di Roma e il Centro Nazionale di Atroterapia Oncologica di Pavia. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E veniamo al tema migranti. È arrivata a Palermo una nave con oltre 600 persone a bordo e oltre 200 sono minori. Il servizio. È stata già ribattezzata la nave dei bambini, la nave Aquarius di SOS Mediterranee, arrivata oggi a Palermo con a bordo 606 migranti salvati in 7 operazioni di soccorso in meno di 36 ore. Più di un terzo, 241, sono i minori a bordo, dei quali 178 non accompagnati. C'è anche un neonato di appena una settimana e sono 11 le donne in gravidanza, di cui 2 al 9° mese. È l'ultimo sbarco in ordine di tempo di questa ripresa autunnale degli arrivi. In questo caso i migranti provengono da 15 paesi africani, ma una cinquantina anche dalla Siria. Secondo le autorità, molti di loro presentano sintomi di malnutrizione e sono provati dalla prolungata mancanza di cure. Un ragazzo porta i segni di ferite da arma da fuoco e da macete. Numerose donne hanno dichiarato di essere state ripetutamente vittime di violenze sessuali e di essere state imprigionate per diversi mesi. Questo sul fronte sud. Sul fronte nord si riaccendono invece le tensioni con l'Austria a 2 giorni dal voto. Vienna infatti ha annunciato per oggi l'entrata in funzione del posto di controllo antimigranti lungo la ferrovia del Brennero. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il fenomeno migratorio è sempre più legato ai cambiamenti climatici. Se non daremo risposte ai cambiamenti climatici, ovvero siccità, alluvioni, eventi estremi, i flussi migratori sono destinati ad aumentare, lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla conferenza organizzata dal CNR su clima e agricoltura. Ascoltiamo. Fenomeni migratori e cambiamenti climatici sono temi collegati strettamente tra loro, a dirlo il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni intervenendo alla conferenza organizzata dal CNR su clima, agricoltura, migrazioni. E questo fenomeno si intreccia con i fenomeni migratori e contemporaneamente siamo consapevoli della necessità di gestire il fenomeno migratorio in modo strutturato, equilibrato. Nello specifico, l'anno scorso i disastri naturali hanno messo in fuga più di 24 milioni di persone. Negli ultimi 8 anni i migranti del clima sono stati circa 203 milioni e in questo stesso arco di tempo i disastri climatici hanno causato in media più di 100 miliardi di dollari di perdite economiche all'anno. all'anno, una cifra che si prevede raddoppi entro il 2030. Le strategie che si possono mettere in atto sono quelle di mitigazione e di adattamento. L'accordo di Parigi sul clima è il chiaro tentativo di entrare su entrambi i fronti. Sentiamo Massimo Inguscio, presidente del CNR. Capire come fornire strumenti per far sì che non solo l'accordo di Parigi si mantenga, ma che venga fortemente implementato e vada oltre. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E passiamo ora alla cronaca. Scoperta dalla Polizia Postale di Bolzano, una rete di pedofili dislocata su tutta Italia. Un magistrato di Reggio Calabria, due insegnanti, un pensionato, un perito informatico, tre impiegati pubblici. Sono 10 le persone arrestate dalla Polizia Postale di Trento nell'ambito di un'indagine sulla pedopornografia. Un'indagine partita a febbraio 2016 con l'arresto di un 38enne altoatesino trovato in possesso di foto e video con esibizioni pornografiche di minorenni e una rubrica con centinaia di contatti su tutto il territorio nazionale. Una rete poi individuata dalle forze dell'ordine composta da soli uomini, spiega ai nostri microfoni la dirigente della Polizia Postale, Sergio Russo. L'unica cosa che posso dire, il minimo comune denominatore, parliamo di uomini. Non ci sono donne, perché è un fenomeno che, secondo quello che danno i risultati, i riscontri, è riferibile in prevalenza agli uomini, quella della morbosità e della compulsività a cercare materiale pornografico che ritrae ovviamente minori. Più sono piccoli, più sono attratti. Gli investigatori sono riusciti, attraverso l'utilizzo di particolari software, a ricostruire moltissime conversazioni dalle quali emergeva la morbosità degli interlocutori nei confronti di pratiche sessuali con minorenni. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo ora agli esteri, andiamo in Brasile con il presidente Temer verso la revoca dello status di rifugiato politico a Cesare Battisti. L'offensiva mediatica di Cesare Battisti continua. Con la stampa italiana l'ex terrorista non parla, ma non c'è giorno che passi senza che conceda una nuova intervista a un giornale brasiliano. Questa volta la Folha di San Paolo. Non ho armi, ha detto, la fuga non è mai stata la soluzione. Con me solo la forza della ragione. Cerca Battisti, forse invano, di far alzare il polverone sul suo caso, una strategia concordata coi suoi legali per far pressione sulla Corte Suprema brasiliana, in particolare il giudice Fux, che deve decidere sul suo futuro. Il presidente Temer ha già deciso, ma non ha voluto compiere un gesto unilaterale, quindi tutto rimane sospeso. Ieri il sindaco di San Paolo, Doria, virtualmente candidato alle presidenziali del prossimo anno, ha detto in visita a Milano chiaramente che Battisti deve essere estradato. Pochissimi politici brasiliani appoggiano ancora l'uomo che da 30 anni fugge e che continua imperterrito a sparare a zero sulla giustizia italiana e sulle grandi trame internazionali. L'ultimo capitolo di una vicenda che potrebbe chiudersi a breve e che questa volta lui sembra proprio non poter più controllare. Emiliano Guanella, Radio 24, Il Sole 24 Ore, San Paolo. E sin qui dunque il caso Battisti. Il governo tedesco, e cambiamo argomento, ritiene l'uscita degli Stati Uniti dall'UNESCO deplorevole, così si dà un segnale sbagliato, ma facciamo il punto nel servizio. Profondo rammarico. Con queste parole il segretario generale dell'ONU Guterres ha commentato il ritiro degli Stati Uniti dall'UNESCO, soprattutto per il ruolo primario che gli USA hanno giocato nell'organizzazione sin dalla sua fondazione. La decisione, resa nota dal Dipartimento di Stato americano, entrerà in vigore il 31 dicembre 2018. La rappresentanza attuale sarà sostituita da una missione di osservatori. Dopo l'ingresso della Palestina, dopo le risoluzioni che hanno condannato Israele e gli insediamenti, si profila un vero pregiudizio anti-Israele, hanno spiegato da Washington. Grande rammarico è stato espresso dalla direttrice uscente Irina Bokova. Il ritiro degli USA è una perdita per l'UNESCO, una perdita per la famiglia delle Nazioni Unite e per il multilateralismo, ha detto. Anche per il Cremlino è una triste notizia. Mentre il premier israeliano Netanyahu ha già dato istruzione perché si prepari anche l'uscita di Israele dall'UNESCO in parallelo con gli Stati Uniti. L'annuncio del ritiro degli USA è arrivato peraltro proprio in una delle giornate in cui si votava per eleggere il successore della direttrice uscente Bokova, il cui mandato scadrà inizio 2018. Nell'ultimo scrutinio, la candidata francese Azoulay, ex ministro della cultura, era testa a testa con rappresentante del Qatar Abdulaziz Al-Kawari. In attesa dello scrutinio finale, c'è chi, come il ministro degli esteri russo Lavrov, oltre ad esprimere la propria delusione per la scelta degli Stati Uniti, ribadisce però che l'attività dell'UNESCO sia stata ultimamente troppo politicizzata e si augura che in futuro si concentri più su questioni esclusivamente umanitarie. Ma per la Bokova, la missione dell'UNESCO UNESCO è quella di andare avanti per costruire un ventunesimo secolo più giusto, più pacifico e più equo. Per questo c'è bisogno dell'impegno di tutti gli stati. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una notizia battuta ora in questo momento dalle agenzie, sempre per gli esteri: se gli Stati Uniti si ritirano dall'accordo sul nucleare iraniano, anche Teheran farà lo stesso, lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Ali Rajani a San Pietroburgo. È stato lanciato dalla base russa di Plesetsk il satellite Sentinel-5P, il primo al mondo in grado di fornire una mappa completa degli inquinanti presenti nell'atmosfera, individuandone l'origine. È la sesta sentinella del pianeta del programma Copernicus, nato dalla collaborazione fra Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea. Il lancio è stato salutato con un applauso dal Centro per la Scienza e la Tecnologia dell'ESA in Olanda, Norvik, nell'evento organizzato con la Commissione Europea. Oggi è la giornata internazionale per la riduzione dei danni catastrofali, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU, che ha l'obiettivo di promuovere la cultura della prevenzione delle catastrofi attraverso mitigazione del rischio e risposta pronta nella gestione dei danni. L'ANIA si è riunita oggi per ribadire quanto sia urgente un cambio di strategia. I terremoti che hanno colpito il centro Italia tra 2016 e 2017 hanno portato per l'ennesima volta la questione al centro dell'attenzione. Il paese è vulnerabile, il patrimonio edilizio non è in grado di resistere a eventi sismici anche non violenti, come nel caso di Ischia ad agosto. La stima della Protezione Civile dei danni di questi ultimi disastri è di 23,5 miliardi. Di questi, 12,9 si riferiscono a edifici privati e solo l'1% del totale verrà indennizzato con copertura assicurativa. L'Associazione Imprese Assicuratrici ha messo a fuoco quanto in Italia l'estensione delle polizze alla copertura delle catastrofi naturali sia ancora molto limitata. È urgente un cambio di strategia, dice la presidente di ANIA Farina. Dobbiamo convincerci che occorre un sistema regolamentare che garantisca per la gestione ex ante dei rischi. L'ipotesi più volte discussa è quella di rendere obbligatoria l'assicurazione contro le catastrofi, che possa magari essere di tipo misto, pubblico e privato. Stando ai rilevamenti di ANIA, gli italiani sono favorevoli alla copertura se è in grado di garantire risarcimenti certi e in tempi rapidi. Ma anche se il numero delle coperture sui disastri è cresciuto, l'ombrello assicurativo protegge ancora appena il 2% delle abitazioni private. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio. Quest'anno siamo ripartiti per vincere, ma bisogna sapere che per noi sarà più difficile. Le avversarie, Napoli, Roma, Milan, Inter e la stessa Lazio, quest'anno saranno più arrabbiate e vogliose, e noi, sapendo questo, dobbiamo migliorare. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Abbiamo contro tutte le squadre del campionato, aggiunge, alla vigilia della ripresa del campionato con la Lazio, e dobbiamo fare qualcosa in più. Sì, qui dunque il calcio. Noi ci fermiamo, pronti per i nostri approfondimenti. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it, col TH. Vi presenta... Effetto Giorno. Di nuovo insieme con Effetto Giorno, il punto di metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Brevemente i nostri titoli: la legge elettorale passa alla Camera, supera tre fiducia il voto segreto, la prossima settimana sarà al Senato, arriva il decreto fiscale, torna alla rottamazione delle cartelle. Approda a Palermo la nave dei bambini, 640 i migranti, di questi 240 i minori. Caso Battisti, il Brasile sempre più vicino all'estradizione. Il nostro primo approfondimento è dedicato invece sempre alla politica, e la parola d'ordine, così possiamo dire, è referendum. Abbiamo visto quello che è successo in Catalogna. Nel nostro piccolo in Italia aspettiamo il 22 di ottobre per i referendum consultivi per quanto riguarda la Lombardia e il Veneto per una maggiore autonomia, ma nel suo piccolo anche la provincia del Verbania ha il nodo del referendum, perché leggo qui una notizia: prende il via lunedì 16 ottobre la raccolta firme per indire il referendum per il passaggio della provincia del Verbania dal Piemonte alla Lombardia. L'iter è stato presentato a Domodossola dal comitato referendario presieduto dall'ex senatore di Forza Italia Walter Zanetta. Noi abbiamo, e la ringrazio, in collegamento il sindaco, la sindaca, come adesso sentiremo come preferisce essere chiamata, Silvia Marchionini, sindaco di Verbania. Buongiorno. Buongiorno, va bene. bene la tradizione, sindaco, va più che bene, grazie. Allora, sindaco, restiamo per la tradizione. Questo referendum che potrebbe coinvolgervi, o meglio, potrebbe coinvolgere la sua provincia, che cos'è, una boutade o qualcosa di più serio? Credo sia un'iniziativa abbastanza velleitaria, anche se ha un suo fascino, perché nel tempo, a periodi ricorrenti, ritorna questo tema di un nostro passaggio del VCO, che è un territorio di confine, che è un territorio a cavallo tra due stati, che è all'altra sponda del lago e siamo già a Varese, quindi siamo un'altra regione, ritorna, cioè da sempre c'è un suo fascino. Ma ecco, il suo fascino, mi scusi. Nessuno vota, cioè siamo solo alla raccolta di firme, come prevede l'assoluto la provincia del VCO, per chiedere di indire un referendum. Certo. Poi ci dovrebbero essere rapporti rispetto sia alla regione che allo Stato. Faccio presente che oggi, e credo che l'ex senatore Zaretta lo sappia anche, è già stata approvata una legge che garantisce autonomia amministrativa alle province di confine VCO. Belluno e Sondrio, approvato nel 2014, certo, ripresa dalla legge regionale 2015, quindi è un po', sì, iniziativa meramente politica. Ecco, però lei ha utilizzato il termine al suo fascino, ma qual è, ci spieghi, il fascino che ha la Lombardia a questo punto sul vostro territorio rispetto al Piemonte? Dal punto di vista culturale, storico e anche economico, noi gravitiamo sull'area del milanese. E anche dal punto di vista dei trasporti, Torino è lontana oggettivamente. Certo. E anche una serie di condizioni economiche più favorevoli fanno sì che si preferisca a tutti noi, insomma, chi per motivi di studio, chi per motivi di lavoro si riferisce a quell'ambito lì, perché veniamo da questa storia, non sicuramente una storia piemontese o torinese. Ecco. Però detto questo, poi se la regione non avesse avuto in animo di concedere delle forme maggiori di libertà a questo territorio, non avrebbe fatto la legge del 2015 che riprendeva quella del Rio del 2014. Ecco, sindaco, sì, solitamente, ecco, ha fatto bene ad anticiparlo, perché solitamente dietro anche alle spinte referendarie ci sono motivazioni anche economiche. Citava la legge del Rio, a che punto siamo con i decreti attuativi anche in favore della sua provincia per rendere la questione annosa che riguarda maggiormente operativo il territorio, certo, che hanno le casse vuote, le strade, le scuole superiori da tenere in ordine. È una questione anche abbastanza nazionale, che ha avuto purtroppo un brusco risveglio dopo il 4 di dicembre, e quindi oggi c'è bisogno di soldi sostanzialmente, che non vengono trasferiti per queste funzioni. Quindi è un ente che è al momento sospeso, però la vita dei cittadini invece è quotidiana e concreta. Quindi siamo in attesa di avere dei soldi. Siamo in una terra di nessuno, possiamo dire così, tra una legge che abolisce le province e invece poi una realtà che è decisamente diversa. Io, ecco, aveva un suo senso il passaggio alla Lombardia 30 anni fa, perché era più difficile anche avere rapporti con i vicini svizzeri. Settimana scorsa la regione Piemonte ha concluso l'accordo col Canton Ticino, fermo da 20 anni, sia dal punto di vista dell'infrastruttura, dal punto di vista del turismo, dal punto di vista della cultura. Oggi anche stare nella Lombardia, che ha un numero già rilevante di province, non è che darebbe chissà quali soldi a questo territorio. Diverso il tema delle compensazioni fiscali per chi è di confine, e in questo senso la legge nazionale già c'è, quindi mi sembra così un voler suggestionare i cittadini, che va sempre bene perché è utile che poi ciascuno si rifletta, però è priva di concretezza questa iniziativa referendaria, e 5.000 firme sicuro che non sono neanche pochissime da raggiungere. Non sono poche per il vostro territorio, giustamente. Ecco, la risposta del Piemonte qual è invece in questo caso? Se c'è stata dalla regione. Il Consiglio regionale ha recepito la legge del Rio, ha fatto la legge sulla specificità montana, mi pare che pure in condizioni di grande difficoltà economica. Cioè, ricordo che il Piemonte nel 2014 era commissariato dal punto di vista della spesa sanitaria, si è uscito dal piano di rientro, si è stato accettato. Certo, fa fatica perché ha questa condizione strutturale di partenza di una vita passata di un certo tipo, di una spesa che superava un po' le entrate. C'è in previsione l'ospedale unico per questo territorio, una cosa attesa da 20 anni. Devo dire, pure c'è un forte intervento, protocollo d'intesa firmato per la strada statale 34 insieme a ANAS, che è l'altro problema annoso che abbiamo. Forse qualcosina di più sui trasporti si potrebbe fare, ecco, e in senso economico per le aziende di confine, questo sì. Perché, benissimo. Noi continueremo, sindaco. Certamente, noi continueremo a seguire questa storia della provincia del Verbania, quindi grazie al sindaco di Verbania Silvia Marchionini e noi diamo spazio alla pubblicità. Effetto giorno. Di nuovo insieme, effetto giorno, i titoli: la legge elettorale passa alla Camera, supera 3 fiducia il voto segreto, la prossima settimana al Senato arriva il decreto fiscale, torna la rottamazione delle cartelle, lunedì a Palazzo Chigi la legge di bilancio, approdata a Palermo la nave dei bambini, 640 i migranti, di questi 240 i minori. Ora la borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. Effetto giorno, il punto di metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri titoli: la legge elettorale passa alla Camera, supera 3 fiducia il voto segreto, il testo dalla prossima settimana al Senato, arriva il decreto fiscale, torna la rottamazione delle cartelle, lunedì a Palazzo Chigi la legge di bilancio, approdata a Palermo la nave dei bambini, 640 i migranti, di questi 240 i minori. L'Austria rilancia intanto sul controllo sul Brennero, questi i nostri titoli. Rimaniamo dunque alla politica, o meglio riprendiamo il tema della politica, perché un'altra polemica riguarda la cosiddetta marcia su Roma. Non ci sarà nessuna manifestazione allora nella capitale il 28 di ottobre, anniversario della marcia fascista su Roma, lo ha detto il ministro dell'Interno Minniti, ma Forza Nuova insiste, il movimento guidato da Fiore conferma l'iniziativa, si mobilita però l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia per lo stesso giorno con una manifestazione dove sarà ricordata l'importanza storica del 28 ottobre e di quanto avvenne nel 22. È con noi e lo ringraziamo il presidente dell'AMPI Carlo Smuraglia. Allora Smuraglia, cosa farete il 28 ottobre? Ma partiamo proprio dalla marcia annunciata da Forza Nuova. Che cosa non va nella scelta della data del 28 di ottobre? Smuraglia. Quello che non va è il fatto soprattutto di volerla fare in una giornata specifica, cioè il 28 ottobre, che ha un significato e attribuisce un significato a tutta la manifestazione. Perché in pratica che cosa accade? Che il 28 ottobre è una data che molti conoscono come una data veramente orribile, per il fatto che è quella che ha dato origine al tragico e drammatico ventennio. È quella che ha seguito poi a tutta una marcia sulla democrazia italiana, ha dato la spinta decisiva all'avvento del fascismo. Quindi fare una manifestazione il 28 da parte di un'associazione che si richiama peraltro a principi e valori che ricordano molto in qualche modo direttamente o indirettamente il fascismo, ha un significato chiaramente di apologia e di propaganda, e non può essere ammissibile questo in un paese che ha dotato di una costituzione che è intrinsecamente e totalmente antifascista. Per questo è intervenuto, mi pare giustamente, sia il ministro degli interni e sia il capo della polizia a dire questa manifestazione ecco l'AMPI non si deve fare. Certo. Smuraglia, l'AMPI ha lanciato un messaggio, quindi un appello di fatto allo Stato antifascista, ricorda lei, proprio per bloccare la marcia, ma c'è anche di più. Cosa organizzerete voi il 28 di ottobre? Ecco, noi abbiamo deciso di organizzare, abbiamo fatto una riunione con tutte le forze democratiche, cioè partiti, movimenti, associazioni, eccetera, nelle quali abbiamo concordato una linea comune anche contro questa reviviscenza dei movimenti fascisti che si vanno intensificando continuamente. E abbiamo deciso un'azione comune che nel caso specifico si spiegherà in questa forma. Noi faremo in Campidoglio una iniziativa, non è nemmeno giusto chiamarla una manifestazione, diciamo un'iniziativa nella quale ricorderemo qual è la vera storia della marcia su Roma, qual è il significato del 28 ottobre. Ci sarà una storica che spiegherà brevemente come è avvenuta la marcia su Roma, in quale contesto, con quali conseguenze, con quali effetti, eccetera. Sarà un'operazione di informazione. Ci saranno rappresentanti delle istituzioni, ci sarà il saluto del sindaco di Roma e così via. E dopodiché una piccola delegazione porterà dei fiori sulla lapide che su Lungotevere ricorda l'assassinio di Matteotti, che è avvenuto proprio in quegli anni. Una manifestazione cioè simbolica, vogliamo ricordare ai cittadini italiani che dovrebbero sapere e a quelli che non sanno che cosa significa il 28 ottobre. Significa semplicemente l'avvio di 20 anni di fascismo, di dittatura. Significa che a quel momento c'erano già stati molti morti, case incendiate, quindi era un'operazione che è stata definita da tutti come un'operazione eversiva. Allora noi vogliamo ricordare questa caratteristica perché pensiamo che informare e chiarire ai cittadini perché è giusto vietare una manifestazione che la voglia celebrare questa data, perché la storia non è da quella parte, la storia con la resistenza e con la Costituzione si è proiettata in una direzione diversa ed è inutile voler cambiare la storia. Ecco, nessuno vuole giustamente cambiare la storia, quindi è la data soprattutto scelta da Forza Nuova che non va, lo ricorderete quindi il 28 di ottobre al Campidoglio, è arrivata anche l'adesione da parte della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Sì, e lo ricorderemo però contemporaneamente con tante manifestazioni in tutta Italia. Noi abbiamo dato indicazione a tutte le nostre organizzazioni periferiche di fare qualche cosa in quel giorno che abbia questo carattere di informazione storica. Ognuno ha diritto di pensare come quello che vuole, ma non ha diritto di fare campagne di propaganda e di apologia, perché questo è vietato da ben 2 leggi già esistenti, oltre a quella che è in discussione in questo momento in Parlamento. Certamente. C'è la legge Scelba e c'è la legge Mancino che inibiscono manifestazioni di apologia fascista e razzista anche. Grazie a Carlo Smuraglia, presidente dell'ANPI. Poco fa il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto fiscale, lo ha annunciato il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro. Per la Finocchiaro c'è anche una norma sulla Golden Power ed ancora il DL fiscale approvato in Consiglio dei Ministri prevede tra le altre norme anche la proroga del prestito ponte per Alitalia. E noi proseguiamo con il nostro viaggio e effettivamente è in viaggio verso l'orbita a 800 km dalla Terra il satellite europeo Sentinel 5P, l'osservatore europeo che per i prossimi 7 anni dovrà monitorare quotidianamente le emissioni che l'attività umana riversa nell'atmosfera. Ascoltiamo. È stato lanciato dalla base russa di Plesetsk il satellite Sentinel 5P, il primo al mondo in grado di fornire una mappa completa degli inquinanti presenti nell'atmosfera e soprattutto di individuarne l'origine. È la sesta delle sentinelle del pianeta del programma Copernicus, nato dalla collaborazione tra Commissione Europea ed Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. Il lancio è stato salutato con un lungo applauso dal Centro per la Scienza e la Tecnologia in Olanda, a Noordwijk, una vera e propria cittadella europea dello spazio, dove lavorano 2700 persone, 400 dei quali sono italiani. Lavorano a questo e in generale alla progettazione delle missioni. Dopo il lancio per Sentinel si entra nella fase operativa di un progetto su cui l'Europa ha investito oltre 200 milioni di euro e che per i prossimi 7 anni farà appunto la guardia in orbita sull'inquinamento del nostro pianeta. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore, Noordwijk. E domani, lo ricordiamo, a Europa Europa, in onda alle 12.30, uno speciale dedicato a questa missione e all'attività aerospaziale europea. Siamo quasi in chiusura, due brevissimi flash di agenzia. Per quanto riguarda il caso Battisti, il sindaco di San Paolo dice: è un criminale, va estradato, non possiamo proteggerlo. Ora in Brasile c'è un governo democratico. Tema della legge elettorale: D'Alema attacca, manca una base per l'alleanza con il Partito Democratico. Ricordiamo che la legge elettorale approvata dalla Camera sarà dal prossimo martedì al Senato. Oggi venerdì, giorno importante di spostamenti. Ascoltiamo allora la viabilità, poi Platero, e ci risentiamo per i saluti.